perché ricordo che non è un atto punitivo nei confronti dei magistrati, ma è un adempimento rispetto anche a una volontà dei cittadini che si sono espressi quasi 20 anni fa con un referendum, perché questi tutti tendono a dimenticarlo, sì, certo, magari volutamente. Ecco, ricordo che quasi il 90% dei cittadini italiani all'epoca si espresse così. Questa ma lei esatto. Cosa vorrebbe? Cioè, un magistrato che sbaglia cosa dovrebbe fare? Pagare? Si può fare causa allo Stato e dunque al magistrato e lui dovrebbe pagare con lo stipendio? Certamente, come succede per tutti gli altri dipendenti dello Stato o anche non dello Stato, per chi compie errori. Ed c'è un principio, perlomeno io nasco e continuo a mantenere saldo quel famoso vecchio ma sempre valido principio di separazione dei poteri, dei tre poteri dello Stato. Comunque chi esercita uno di questi tre poteri deve essere chiamato a rispondere se fa degli errori. Ora, per il legislatore, quindi per i parlamentari, che tanto bistrattati, comunque siamo chiamati anche molto spesso a rispondere dei nostri errori. Per chi governa, idem, e non si capisce perché non debba essere chiamato a rispondere chi esercita il potere giudiziario. Con i dovuti modi, con le dovute cautele, con i dovuti distinguo, ci mancherebbe. I magistrati ma però infatti parlano di vendetta, no? L'ANM l'ha sentita anche lei, il sindacato, faremo uno sciopero totale. Se l'Associazione Nazionale Magistrati pensa di intimorire il Parlamento, intimorendo me, come è successo con le dichiarazioni di Cascini, hanno sbagliato totalmente mira e soprattutto mostrano di avere un concetto della democrazia molto molto labile. Non c'è nessun tipo di vendetta, anche perché se uno, cioè, anziché fare demagogia, questi signori leggessero il testo che è stato votato dall'Aula, e ripeto e sottolineo, votato dall'Aula, quindi sì, certo, finalmente, finalmente il Parlamento che dà una risposta di buon senso, la politica che fa qualcosa di buon senso, perché questo si tratta solo di buon senso, cioè la giustizia deve essere lasciata libera di esercitare il proprio ruolo, senza condizionamenti, ma anche senza privilegi. Questo è un privilegio ottocentesco che non trova riscontro in nessun altro paese civile. Cioè il privilegio di non essere puniti. Il privilegio di non essere chiamati a rispondere di ciò che si fa. Però effettivamente siamo a livello di follia. Però la legge Vassalli prevede, se c'è dolo o colpa grave di un giudice, sì, un giudice. Ma il dolo o colpa grave è sostanzialmente è quasi impossibile le do qualche numero. È vero che ci sono solo quattro casi. Esatto, quattro casi in 20 anni. Le sembra possibile? Ricordiamo il caso Tortora. Qualcuno ha pagato per aver compiuto quel madornale errore? No. Forse perché non è stata trovata, immagino io, il dolo o la colpa grave. Cioè, un conto è l'errore, appunto. Ma è questo il punto di caduta del discorso, è questo. Il dolo e la colpa grave, praticamente, cioè, bisogna veramente essere dei delinquenti, allora a quel punto c'è da parte del magistrato che volutamente mette in carcere qualcuno perché magari, non lo so, gli ha pestato un piede, gli ha dato fastidio. Però la manifesta violazione del diritto, cioè che è normata, che io ho messo il comma 3 bis di quell'articolo, specifica in maniera chiara che cos'è la manifesta violazione del diritto, riprendendo quello che ha scritto la Corte di Giustizia Europea nella sentenza, cioè un magistrato che disattende una norma, fa finta di non vedere che c'è una norma favorevole all'imputato, oppure non tiene conto della giurisprudenza anche in sede europea. Ma è una colpa grave, cioè uno che un magistrato che fa finta di non vedere. Quella non viene considerata colpa grave, è considerata, secondo la giurisprudenza internazionale e secondo la giurisprudenza soprattutto europea, è considerata manifesta violazione del diritto. Siccome non era inserita, io ho inserito questo principio. Ma torno a sottolineare perché sia chiaro, non è punitivo per due ordini di ragioni. Uno, perché l'hanno chiesto i cittadini italiani 20 anni fa e siamo in ritardo di 20 anni rispetto a questo. Due, siamo in ritardo e siamo in sanzione perché siamo stati condannati come Stato italiano dalla Corte di Giustizia Europea perché non abbiamo inserito nel nostro ordinamento questo tipo di richiamo. Senta, ma lei dice in ritardo di 20 anni, ma mi sa che rimarrà in ritardo perché lei lo sa che al Senato verrà cassata. Ma io invece penso Io invece, contrariamente alle stupidaggini di Pietro e alle evocazioni di piazza, secondo me saranno i cittadini a prendere i forconi se qualcuno pensa di modificare una norma che è una norma di buon senso, introduce un principio di giustizia civile e soprattutto va a difesa di quelli che sono i diritti fondamentali dell'individuo. Anche se Monti dice ai partiti no, così non va bene, siate leali. Certo, la Lega non appoggia molto Monti. Questo... No, noi non l'abbiamo appoggiato. Però avrà fatto piacere aver dato questo bel dispiacere. Ma assolutamente no. Sì, anche perché è la prima volta che il governo va sotto su una questione importante, perché sa, andare sotto su un ordine del giorno fa clamore per quei 5 minuti sui titoli dei giornali online, però non sortisce effetti. Andare sotto su un emendamento di questa portata chiaramente qualche problema lo crea al governo, però deve essere un avviso ai naviganti anche per il governo che l'esercizio del potere legislativo del Parlamento non può essere schiacciato da una continua iperproduzione di decreti e un continuo ricorso alla fiducia, perché guarda caso la prima volta che un provvedimento viene in aula e non viene posta la fiducia il governo va sotto. Quindi tutta questa brutto segnale, effettivamente il segnale politico, cioè per Monti infatti ieri preoccupato ha chiamato ABC, no? Alfano. E allora se Monti è preoccupato, fa bene a esserlo, deve tener conto che non può svilire il ruolo del Parlamento. Senta, onorevole Pini, due domande per concludere personali. Lei nella Lega, lei è definito sia uno spaccamaroni da romagnolo, ma sia però un maroniano. Quindi mi faccia sia un maroniano, lei spacca maroni ma maroniano, ecco. Lei è un maroniano. Bella definizione. Lei è maroniano, sì. Io sono leghista. Tutti così. Le sono da più di 20 anni. Considero, come ho detto tante volte, Umberto Bossi un secondo padre per tutta una serie di ragioni e di motivi, e considero Roberto Maroni un grande amico. Ah, va bene. Quindi non è, Bossi non è finito, cioè non bisogna pensare a una successione anche della Lega politicamente. Non scherziamo. No. L'ultima cosa, tra poco noi parleremo dei ricorsi dei vitalizi. Ma cos'è? Roma ladrona, ci sono 15 ex parlamentari leghisti che vogliono. No, ci sono 15 ex leghisti da quello che mi risulta. Beh, c'è solo un leghista che ha fatto ricorso e mi auguro che venga. No, come ex leghisti, ex parlamentari, però leghisti. No, sono ex leghisti. Lei vada a vedere, sono tutti ex parlamentari, ma anche ex leghisti, almeno quello che risulta a me. Io vedo c'è gente che è passata. C'è Molgora però. Infatti le ho detto c'è un deputato. No, c'è anche l'eurodeputato, oggi c'è sul Libro, Rossi era ieri alla Zanzara della Lega. No, questo non lo sapevo. Chiedo scusa. Comunque allora, ci sono due leghisti, ci sono 14 ex leghisti, è quello che mi risulta. Perché sono, allora no, le faccio alcuni nomi, c'è cioè la Bertotti che è passata in rifondazione all'epoca. Noi avremo la Pizzicara che effettivamente è passata ai Centro Cristiano Democratico. Esatto, al CCD, cioè sì. Tutta gente che purtroppo quando ci fu l'esplosione enorme in termini positivi di consenso nel 94, purtroppo imbarcammo anche gente che... Quindi, vedere con la Lega c'erano i famosi collegi che adesso richiamano, no? Quindi lei respinge questa idea alla Lega da una Roma ladrona e poi a chiedere. Io la respingo perché a questo punto se devono guardare i fatti così come sono, su 59 parlamentari alla Camera attualmente presenti, solo uno ha fatto ricorso e secondo me avrà qualche problema internamente per questo ricorso. Mi auguro che abbia la decenza e il buon senso di ritirarlo, anche perché ha passato tanti anni in Parlamento e non penso che debba finire così ingloriosamente la propria carriera politica, oltretutto è anche presidente di una provincia. È presidente della provincia di Brescia attualmente. No, penso che dovrebbe mostrare più sobrietà. Forse dice tra un po' mi tolgono anche la provincia perché le cancellano. Vabbè, ho capito, ma la politica non deve essere vista come un lavoro a tempo pieno, deve essere vista come una passione, come un servizio, come un hobby. Intanto la ringrazio, onorevole Pini, per essere stato con noi. Gianluca Pini della Lega, grazie. Ci fermiamo, la pubblicità è meteo e poi avete capito, insomma, parliamo di questi ricorsi. Sono usciti i nomi di coloro che dicono il vitalizio ce l'avevate promesso a 50 anni, ora ce l'avete messo a 60 anni, noi non ci stiamo. 24 mattino. Eccoci qua, solo una precisazione a chi dice: ah, ma sembra che ce l'hai, sei sempre dalla parte delle toghe. Io non sono dalla parte di nessuno, intanto. Poi è che non posso raccontarlo. Ho ricevuto una sola querela per diffamazione nella vita mia da giornalista, da una toga, da un magistrato, anche molto influente, caro ascoltatore che mi scrivi di essere dalla parte delle toghe. Ma non posso dire niente, se potessi raccontarla. Fare una figura davvero barbina a un magistrato che vedete sui giornali, spesso. Comunque, 8:37 minuti, eccoci qua. Allora, sono usciti i nomi di coloro che hanno fatto ricorso per il vitalizio, perché prima si dava 60 anni, con la nuova normativa verrà erogato dai 50 anni, adesso solo dai 60 anni, e diversi o parlamentari o ex parlamentari hanno fatto ricorso dicendo: ci avete cambiato le carte in gioco durante, ci avete cambiato le regole, dunque noi pretendiamo il vitalizio a 50 anni. Saluto il presidente del Consiglio di giurisdizione della Camera, l'onorevole Giuseppe Consolo di Futura Libertà. Buongiorno onorevole, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Perché lei dovrà in questa veste di giudice decidere tra l'altro del destino di, io lo saluto e lo ringrazio perché è tornato anche lui con noi, l'onorevole Roberto Rosso, deputato del Popolo della Libertà. Buongiorno, buongiorno onorevole. Uno che, io l'ho sempre detto, almeno ci ha messo la faccia prima che uscissero i nomi, ce l'ha detto. Sì, io ho fatto ricorso la settimana scorsa ed è ancora con noi. Saluto anche Giulio Arrighini, buongiorno. Buongiorno. Lei è un ex parlamentare della Lega, se non sbaglio. Sì. Da 90. Innanzitutto ci spieghi questo mistero, lei è ancora un leghista? Perché prima... No, io sono uscito dalla Lega nel 99. Ecco, perché prima l'onorevole Pini ha detto: ma finiamola di dire che sono 15 leghisti, sono 15 ex leghisti, quindi lei non è più della Lega. Sono più della Lega, probabilmente siamo più leghisti di quanto non lo siano quelli attuali, nel senso che appartenevamo alla prima generazione quando la Lega, dal nostro punto di vista almeno, però scusi, è un partito più serio di quanto non lo sia. Lega oggi. Roma ladrona e poi mi fa ricorso e chiede il vitalizio, prima. Ma guardi, intanto voglio precisare che le considerazioni che lei mi dà l'occasione di fare sono relative al mio caso personale, perché i ricorsi credo che siano individuali, pertanto certo, non posso parlare del resto a nome di altri. Ma è bene che si sappia che quando un parlamentare cessa dal proprio mandato, la Camera lo mette davanti a due opzioni, due possibilità. O riscuote tutti i versamenti che fino a quel momento sono stati accantonati, oppure gli viene data la possibilità di integrare le legislature completate pagando dei versamenti, pagando, contributivi mensili. Lei i versamenti li ha fatti, ovviamente. Io i versamenti li sto ancora facendo, li faccio da 16 anni, okay, in alcuni casi anche con qualche difficoltà. Dopodiché non sono contrario per principio all'abolizione del vitalizio, anzi sono... Anche perché non gliel'hanno abolito, lei quanti anni ha? Io ho 49 anni. Ah, quindi l'avrebbe preso l'anno prossimo. No, l'avrei preso a 55. A 55. Credo. Esatto. Quello che però è avvenuto è di fatto una violazione delle norme contrattuali, perché un'altra cosa che io credo sia giusto precisare è che quella che viene definita la pensione dei parlamentari in realtà è, senza entrare in tecnicismi, anche perché non sono un tecnico, è più equiparabile e simile ad un contratto assicurativo. Mm. Allora lei capisce che se si sottoscrive un contratto con un'assicurazione, se questo in corso d'opera cambia le carte in tavola, evidentemente qualcuno non è stato ai patti. Io, se del resto, avrei potuto fare scelte diverse nel momento in cui mi è stato chiesto di scegliere fra le due opzioni che le ho illustrato. Sì, sì. Dopodiché, ripeto, non sono contrario per principio all'abrogazione del vitalizio dei parlamentari, perché questo valga per tutti e sia retroattivo. Vabbè, quindi lei dice mi hanno cambiato un contratto quasi se fosse un'assicurazione privata, mettiamola così, e quindi hanno cambiato le carte in gioco. E però sempre questa cosa di Roma ladrona, cioè, il vitalizio glielo danno a 60 anni, sa, di sti tempi, tirare la cinghia. Voi avevate vinto una lotteria, adesso magari vi stanno un po'... Assolutamente favorevole, ripeto, anche all'abrogazione del vitalizio per un parlamentare, perché questo valga per tutti, anche perché siamo davvero convinti che questo comporti qualche risparmio considerevole per la Camera dei Deputati. Considerevole, sarebbe stato molto più incisivo sul piano della riduzione dei costi allargare la platea. E allora Mi hanno cambiato tra l'altro tutto in corsa, e quindi lei per questo ha fatto ricorso. L'onorevole Rosso, onorevole, lei la scorsa volta ci ha detto una frase straordinaria, cioè non è che si deve discutere se io abbia meno ragione, perché io ho ragione, no? Onorevole, glielo riassumo velocemente. Il sottoscritto, una volta eletto deputato, ha rinunciato al doppio reddito di avvocato e alla doppia pensione, cancellandosi dall'ordine degli avvocati. Questa mi sembra la vera vergogna, che ancora adesso, ancora oggi, si possono accumulare due o tre trattamenti previdenziali. C'è chi addirittura fa il vitalizio da parlamentare, il vitalizio da consigliere regionale, la pensione da avvocato, da dipendente pubblico, dipendente privato e quant'altro. Il vitalizio fu voluto dai padri costituenti, quindi da De Gasperi e tutti gli altri, con un trattamento diverso dalla pensione, lo diceva prima Righini, perché non consegue uno stipendio, ma ad una funzione che neppure volendolo può durare 40 o 50 anni, lei capisce benissimo. Ma non è che ve l'hanno cancellato, ve l'hanno spostato avanti nell'età. Ed è questo che voglio dire. Io dopo 25 anni di contributi e 5 legislature parlamentari, qui arriviamo alla domanda che lei mi poneva, avevo conseguito il diritto già acquisito, perché avevo già compiuto i 50 anni, di ottenere il vitalizio a 50 anni. E come insegna la giurisprudenza costante, l'ho messo nel mio ricorso, della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte Europea dell'AIA, i diritti già acquisiti non possono essere più abrogati. Non vi è una sola sentenza che dica il contrario. Allora, ma infatti io su questo sarebbe se non avessi già acquisito il diritto, nel quel caso l'allungamento sarebbe stato legittimo. Presidente Consolo, ha sentito, cioè questo è il clima nel quale lei dovrà decidere, lei l'organismo che per sé dovrà decidere. A parte c'è una questione secondo me di legge, e questa non le chiedo di anticipare nulla, deciderà. È una questione secondo lei anche di opportunità dei ricorsi? Guardi, per quanto riguarda la questione di legge, ovviamente io non posso dire niente, attirando magistrati da una parte e dall'altra, perché chi vuole che io anticipi, ma è fuori discussione che non lo posso fare. Per quanto riguarda l'opportunità politica, è sotto gli occhi di tutti che chiaramente siamo stati appellati col termine poco nobile della casta, pensando che ci siano poi tutti questi benefits e queste cose che in realtà poi andando a vedere si sono molto ridimensionati. Quindi io per garbo, così come voi mi avete invitato, ho accettato, perché non c'è niente da nascondere, ma dare dei miei giudizi pendente la causa non è possibile. Però è rimasto stupito del fatto che siano tanti, pochi, se ne aspettava di più, cioè di questi ricorsi? Ma guardi, impostandola come l'ha impostata l'onorevole Rosso, ad esempio, da parte sua c'è il convincimento, io non lo so perché non ho ancora letto i fascicoli delle singole posizioni, perché sono ricorsi individuali, ma chi ha fatto ricorso è convinto di aver ragione e vedremo se hanno ragione o no. Una cosa è sicura, noi faremo, dico noi perché non uso per me stesso ovviamente il plurale maiestatis, ma insieme agli altri due colleghi che costituiscono il collegio faremo il nostro dovere fino in fondo. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Poi vorrei partire dall'onorevole Rosso, perché prima avevamo Pini della Lega che ha detto no, sono ex leghisti, non sono leghisti veri, e un leghista vero che è uscito, l'onorevole Molgora, spero davvero che ritorni sui suoi passi per non finire ingloriosamente la sua esperienza alla Camera con questo tipo di ricorso. Insomma, quindi un po' di vergogna da parte di qualche collega c'è nei vostri confronti. Intanto salutiamo anche l'ex onorevole invece Roberta Pizzicara, che aveva annunciato e che ci ha detto: sì, chiamatemi a questo numero fisso, spiegherò tutto. Il numero fisso è staccato, fa così tu. Vabbè, non ha ritenuto di darci spiegazioni. Io invece almeno ringrazio le persone, ne abbiamo contattati altri ieri di questa lista, e quelli che almeno sono qui a spiegarci i motivi del loro ricorso, non c'è nulla di male. Onorevole Rosso, le leggo 5 righe oggi di Giampaolo Pansa su Libero. L'uomo della strada, l'italiano medio e senza potere, odia i politici, li considera fannulloni, ladri, parassiti della società nella quale succhiano il sangue, non li sopporta più, sarebbe pronto a pagare chiunque sia in grado di sopprimerli, considera tutti i partiti dei clan mafiosi, giudica il Parlamento un ente inutile che andrebbe cancellato. Questo Giampaolo Pansa oggi su Libero. Questo lo dicevano anche, per essere molto chiari, sì. Se a leggersi le cronache del tempo dopo la prima guerra mondiale, Mussolini andò al potere non perché fu un pazzo visionario, ma perché c'erano moltissimi come Pansa che invitavano la gente a indignarsi a comando, che dicevano che il Parlamento non serviva. Alla fine ci fu qualcuno che davvero non lo fece più servire. Dopo la seconda guerra mondiale ho parlato dei padri costituenti che volevano il vitalizio, cioè una cosa diversa, lo dicevo prima, certo. Dalla pensione, cioè dissero sostanzialmente: uno, per essere libero di fare il suo mandato, se non continua a fare la professione, perché giustamente, ad esempio, Consolo, che è un grande avvocato, ha ritenuto legittimamente e giustamente di continuare a fare l'avvocato. E fa anche il parlamentare, e quindi cumula un reddito aggiuntivo rispetto a quello del parlamentare. Ha una libertà aggiuntiva rispetto a uno che abbia scelto, come sottoscritto, di fare solo. No, ma la mia domanda è: non è che leggere, uno legge le vicende, che ne so, ne metto due insieme, quella dei 13 milioni spariti dall'ex Margherita, oppure per dire, cioè, la gente, lei capisce l'indignazione della gente oppure no? Dice sì, è sbagliato. Sì, guardi, però il problema è questo: l'indignazione della gente è anche quella di capire che se uno aveva la pensione d'anzianità prima ed è andato in pensione d'anzianità, non è che con questo ha fatto un reato, anche se altri oggi non hanno più la pensione d'anzianità. Ci furono addirittura quasi, non so più quanti milioni di persone che presero la pensione a 14 anni se mezzogiorno, le cosiddette pensioni baby. Eppure c'è un mucchio di gente che continua a prendere quella pensione, grava per 10 miliardi di euro sul bilancio dello Stato. Però, onorevole, vogliamo rispiegarlo, cioè nessuno ve la toglie questa pensione, l'hanno alzata solo di età, perché il periodo è quello che è, vi hanno chiesto un sacrificio, che hanno chiesto. Il vitalizio non è una pensione, torno a ripeterle, accede a una funzione. Cosa vuol dire una funzione? Mentre un lavoratore vuole normalmente smettere di andare a lavorare e entrare in pensione, questa era la ragione delle pensioni d'anzianità, viceversa per il vitalizio uno vorrebbe continuare a fare il parlamentare. Io mi auguro, ad esempio, nel mio caso, di essere rieletto, che nel 2013 possa essere ricandidato e possa essere rieletto, spero con una legge elettorale che mi consente di essere scelto dai miei cittadini e non a comando come oggi dei partiti politici, dei capi dei partiti politici. Però la mia speranza è quella di continuare a fare il parlamentare, solo che essendo una funzione, non so se questo potrà essere. Allora cosa succede? Che i padri costituenti dissero: non dopo un mandato o due mandati, ma dopo un certo numero di mandati. È chiaro, quasi impossibile che uno rimanga in Parlamento 50 anni. C'è il vitalizio. Accederà una previdenza assicurativa che farà sì che quella persona possa continuare a fare tranquillamente vita civile. No, ma è chiaro, è chiarissimo. Ma non potrà mai inserirsi nel mondo ma lavoro. È chiarissimo, ma non mi faccia la storia del vitalizio. La questione che la gente non capisce è che vi hanno chiesto un sacrificio. Ma vorrei andare da due ascoltatori adesso. Che vi hanno chiesto un sacrificio, cioè dire da 50 alziamola questa età a 60, nella quale età dalla quale ve lo daremo questo vitalizio, perché bisogna dare un segnale al paese. E invece voi fate ricorso contro questa, è questo che contro il quale la gente si indigna, nessuno vi vuole mettere alla fame. Mi faccio sentire Antonio dalla provincia di Milano, buongiorno. Antonio. Buongiorno. Sì. Senta, detto da me, che sono, non faccio parte dei signori della casta, detto da me mi sembra, diciamo, che questi signori hanno ragione, per me hanno ragione, perché nella forma hanno ragione, però vorrei, c'è questa diversità fra vitalizio e pensione. Però provino a pensare, io faccio l'operaio da 40 anni, quando sono arrivato alla soglia dei 35 mi hanno detto che dai 35 è stato spostato ai 40, dai 40 mi hanno detto che sono arrivati, devo fare un anno in più perché non ci sono i soldi, da 41 adesso sono 42 e un mese, Voleva toccare l'arma militare. Lei si arrabbia un po', per usare un eufemismo, giustamente. Mi devo appellare anche io alla Corte dell'Aia, mi devo appellare alla Corte Costituzionale, non so, a chi mi posso appellare? Cioè, ci prendiamo in giro tutti qua. Chi paga siamo noi. Grazie Antonio, grazie. Io capisco lo sfogo. Intanto so che ci ha richiamato l'ex onorevole Pizzicara. Adesso siamo ormai a 2 minuti per concludere, non c'è tempo. Vorrei magari controlli la prossima volta meglio il telefono, che era messo male. Giulia Righini, vorrei tornare un attimo da lei. Intanto, lei si sente un ex rappresentante della casta? Infatti questa distinzione, tra le altre, andrebbe fatta. Il parlamentare in carica si trova automaticamente accantonate le quote relative appunto al vitalizio. Il parlamentare che decade dalla carica, se vuole completare il periodo mancante di legislatura, deve metterci dei soldi propri. Sì, come ha fatto lei? Come ho fatto e io. Per questo lei dice hanno rotto questo patto, diciamo, di un'assicurazione che lei ha fatto. Per cui, sì, perché in quel monte accantonato ci sono i risparmi di chi ha fatto una scelta sulla base di accordi prestabiliti. Dopodiché l'ascoltatore ha non una 100 ragioni, infatti io mi chiedo spesso perché i sindacati non si siano mai attivati per difendere presso la Corte Costituzionale e tutti gli organi competenti questa truffa di fatto nei confronti di tutti i lavoratori. Sì, però tutti hanno ragione, però ognuno poi difende il proprio interesse. Onorevole Consolo, su questo per concludere, lei crede che siamo un mondo, un'Italia poi di piccole grandi caste dove ognuno poi pensa al proprio interesse? Arrighini dice l'operaio ha ragione, però ho ragione anche io a fare il ricorso. Guardi, senza diritto noi saremmo un'orda in preda agli istinti, quindi cerchiamo di applicare il diritto e vedremo come va a finire. Molto diplomatico, no, io capisco la sua posizione, perché l'onorevole Consolo in questo momento, tra poco, diventerà lei un giudice proprio, secondo l'autonomia della Camera, no? Non c'è dubbio. Ecco il motivo per cui può sembrare che io sfugga, ma non è così. No, deve essere molto diplomatico. Ho dovuto intervenire perché mi sembrava giusto non essere assente, ma sottolineando che i miei giudizi non possono essere espressi ora, ma saranno espressi dopo il 18 aprile. Però l'hanno accusata un po' di essere già, ha fatto qualche intervista anche da noi nella quale ha preso le distanze, dire quindi un giudice che sarà poco imparziale. Dal punto di vista personale noi sappiamo lei come la pensa, ce l'ha anche detto su questi ricorsi. In ogni caso staremo a vedere e vi ringrazio dall'onorevole Giuseppe Consolo di Future Libertà, all'onorevole Roberto Rosso del Popolo della Libertà e Giulia Righini, ex leghista. Saluto anche e ringrazio Roberta Pizzicara che ci ha chiamato, ma in chiusura non c'era davvero più tempo. Saluto tutti da Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, tutti in redazione, Peter Bescapè, che batto questa settimana perché vado a passare un weekend dove ci sono meno 20 gradi. Alpino, ti batto. E ci vediamo e ci sentiamo lunedì.